La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci insieme amici, non è sabato se non c'è il cinema da sentire qui su Radio 24, La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è sullo schermo e anche oltre. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana piena di cinema, anche di cinema importante, mentre al botteghino battagliano le animazioni di Inside Out, che è chiaramente primo in classifica, è balzato subito con un incasso importante già nel primo weekend, oltre 6 milioni di euro, ne ha già raggiunti circa 9. Quindi sta galoppando, però i Minions nel loro piccolo, ormai perché siamo lontani dall'uscita, resistono e hanno superato i 21 milioni di incasso totale. Chissà fra questi due film d'animazione quale sarà a trionfare entro la fine dell'autunno, però noi invece nel primo weekend veramente autunnale dobbiamo ricordarvi e raccontarvi molto altro cinema, a partire dal cinema italiano che arriva dritto dritto dalla mostra del cinema di Venezia. Il caso del film di Vincenzo Marra si intitola La Prima Luce, la storia di un giovane avvocato. Il film si svolge in Puglia, una storia tra i due che si sta lentamente esaurendo, tra lui e la giovane compagna sudamericana. Chiaramente, come sempre succede, un po' il bisogno di radici e un po' anche il legame con i figli riescono a unire, ma a volte riescono anche a dilaniare le coppie, ed è quello che accade ai protagonisti di questo film. Vuoi bene? Io sì. E io pure. Tan serio, tan. Me voy a ir a mi casa. E Matteo? Lui viene con me. Elia. Matteo è anche mio figlio. Tu non me lo puoi togliere. Marco, qui non c'è futuro, lo sai? Conosci la residenza della signora nel suo paese d'origine? No. Ci siamo voluti bene. Abbiamo vissuto dei momenti intensi. E soprattutto abbiamo fatto questo bambino meraviglioso, e quindi è a lui che dobbiamo pensare. E allora, la voce che avete sentito è quella di Riccardo Scamarcio, protagonista del film con Daniela Ramirez, scontro di culture, ma anche ribaltamento di quelli che sono gli stereotipi. Si pensa all'Italia come l'America, tutta attaccata, come diceva Gianni Amelio, di popoli che cercano nel nostro paese una vita migliore. Si scopre che forse in realtà in certi momenti è altrove che si può provare a vivere un benessere, e che comunque siamo tutti stranieri in una terra che non è la nostra, e siamo tutti a disagio con città, a volte anche megalopoli, come succede al protagonista quando va al di là dell'oceano e si trova di fronte a una città largamente indecifrabile. Con noi Boris Sollazzo, non sarebbe sabato nemmeno senza Boris, che è in collegamento con noi. Ciao Boris, raccontaci tutto quello che si può in breve di questo film che è passato alla Mostra del Cinema di Venezia e che mi sembra abbastanza originale nella sua composizione. Beh Franco, io confesso che questo è il mio film della settimana e sarà probabilmente il film di tanti mesi a venire. Uno, perché c'è un Riccardo Scamarcio straordinario, forse così bravo non l'avevamo visto mai, forse solo all'altezza del film con Costa Gavras. Si imbruttisce un po', racconta la storia inconsueta per lui di un uomo che non fa più effetto sulla propria donna, sulla propria moglie, moglie sudamericana, moglie che da 7 anni vive in Italia con il giovane Matteo. Si capisce che loro è stato un grande amore, una grande passione da cui è uscito questo bambino. Lei ci ha provato a vivere in Italia, ma a un certo punto glielo dice: io voglio tornare, questo è un paese che non ha futuro. E forse tra tanti film che cercano di essere politici e di denuncia civile, una piccola frase in una storia d'amore che finisce dice molto di più sul nostro paese che tanto altro. E La Prima Luce è proprio questo, è quella prima luce che illumina tante piccole cose che si incentrano su una storia drammatica che il cinema non racconta mai, cioè quella della separazione tra coppie miste e di come spesso i genitori stranieri decidano di portarsi via i figli, in particolare le madri, e di toglierli, di strapparli all'altro genitore. La grandezza di Marra sta nel fare un film straordinario su una storia tremenda, ma che va a pescare molto nelle nostre sensibilità, e dall'altra parte però di non renderlo mai un film ideologico. C'è un carnefice che è la mamma, Daniela Ramirez, bravissima, c'è una vittima, Riccardo Scamarcio, ma noi guardiamo anche dentro l'anima del carnefice, che il carnefice non è. In questo senso forse il momento della deposizione in quella capitale sudamericana indecifrabile che raccontavi, della doppia deposizione in tribunale, fa capire la disperazione e l'abisso in cui sono caduti, perché la fine di un amore è un abisso. E questo riesce a fare Marra, raccontare la fine di un amore in una maniera straordinariamente romantica e dolorosa nella prima parte, e poi fare un thriller alla Kramer contro Kramer nella seconda. Li mette benissimo insieme e ne esce fuori uno dei gioielli più belli di questo Festival di Venezia, e secondo me uno dei film più belli italiani della prossima stagione. E allora Boris, per coronare un po' la tua recensione positiva di questo film, ti lancio io, facciamo così, l'intervista, la breve intervista con Vincenzo Marra, raccolta proprio dal nostro Boris Sollazzo. Vincenzo Marra, La prima luce, un film che possiamo dire mai visto al cinema italiano. Speriamo di no, sicuramente tratta un tema mai visto prima, alcuni critici a Venezia hanno parlato, diciamo, il film che viene dopo Kramer contro Kramer, che è un film del 1980, giù di lì, di questo sono particolarmente orgoglioso. È una tematica globale e planetaria, quella della sottrazione internazionale di minori, cioè di quella macchia nera che passa quando una coppia mista si separa e uno dei due decide di portare via il bambino per incapacità di separarsene. E racconta, il film racconta questa storia, e questa storia ha a che fare con, anche secondo me, al di là del tema trattato specifico, che è questo dei minori e della sottrazione, ma che ha a che fare con un amore che finisce. E il tentativo era quello di poter far immedesimare in mille dinamiche che il film racconta uno spettatore qualunque, perché sicuramente qualcosa di simile è successo. Sì, un grande film sulla fine di un amore, un grande film anche emotivamente potente, con un grande Riccardo Scamarcio. Sono contentissimo di come è stato il lavoro con lui, di come è sullo schermo e di come è stato accolto la sua, il suo lavoro, e questo per me è molto soddisfacente sia per lui che per me, e quindi mi fa piacere, insomma, che anche i più scettici si stanno ricredendo. Bene, grazie Vincenzo. E grazie a voi. E allora Vincenzo Marra alla Rosa Purpurea con La prima luce, il primo film, il primo consiglio di questa settimana. Ora, viabilità, tra poco si torna insieme perché c'è un altro film che arriva invece dal Festival di Cannes del maggio scorso, si intitola Sicario, anche questo molto bello, ne parliamo. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma. Andiamo avanti con un film che si intitola Sicario, titolo che così farebbe pensare subito a un film assolutamente italiano, ma il regista è Denis Villeneuve, gli attori sono Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio del Toro, tanto per stare sui nomi più ricorrenti, e il confine è quello fra il Messico e gli Stati Uniti, è un confine proprio da cinema, no? Quella terra di nessuno che c'è fra questi due paesi nei quali fiorisce il commercio di droghe, e la protagonista del film è una agente dell'FBI anche un po' idealista che dovrà rifare i conti, anche riprendere le misure con la sua professione per cercare di uscirne viva. Il Dipartimento di Stato cerca un agente specializzato nel contrastare l'escalation dei cartelli della droga. Non è il mio settore. Vuoi essere dei nostri? Potrò arrivare a chi è responsabile di quello che ho visto oggi. Arriverai a chi è realmente responsabile. Probabilmente niente ha senso ai tuoi occhi americani, ma alla fine riuscirai a capire. Mi usate come esca. Fermi! Hai visto cose che non dovevi vedere. Lui lavora per i nostri rivali. Dirò a tutti quello che lei ha fatto. Sarebbe un errore imperdonabile. Boris, ormai un genere come quello action proprio forte, duro come questo, sembra aver detto tutto quello che poteva dire cinematograficamente. Uno si siede davanti allo schermo pensando di rivedere, magari anche di rigodere, degli stessi stilemi, degli stessi formati. A volte non è così, e mi sembra che Sicario sia un film che in questo riesce a sorprendere. Sì, nel bene e nel male devo dire, perché è un film che prende qualcosa che conosciamo fin troppo bene, forse davvero troppo, e cerca di scomporlo e riportarlo, secondo anche il gusto di Villeneuve, che è un regista molto particolare, altrove. A volte riesce, a volte no nel film. Il film è molto discontinuo, anche perché è veramente una sfida esagerata quella di prendere il cinema di Villeneuve, che è un cinema tendenzialmente lento, molto estetizzante, che non si fonda né sul ritmo né sulla potenza di scene madri, portarlo a una storia che a cui invece siamo abituati ad appiccicare l'etichetta della frenesia, dell'action, del costruire costantemente aforismi nella scrittura e esagerazioni nella visione. E il film ha un inizio incredibile, straordinario, davvero da storia del cinema, un inizio anche molto disturbante, molto difficile da sopportare, un'idea di sceneggiatura molto particolare in questo rifugio di un boss che si scopre essere una sorta di cimitero murato, con un iniziale colpo di scena molto molto spaventoso, e lì hai l'impressione che assisterai a una cavalcata trionfale, e così non è. Il film riesce molto bene fino a che non ci arriva al confine proprio, con Emily Blunt che fa un percorso di crescita anche molto duro, in cui finisce in un'unità speciale in cui crede, anche a costo di qualche suo, come dire, valore non rispettato, in cui crede di fare la cosa giusta, e si ritrova nel mare grigio di una corruzione, di una connivenza che non era pronta ad accettare. Nella parte centrale il film si perde un po', anche perché forse il personaggio di Emily Blunt è davvero scritto in maniera troppo bidimensionale, questo idealismo diventa un po' da operetta, per riprendersi leggermente nel finale. E così esce un film con un soggetto straordinario, una buona scrittura, un paio di attori molto bravi, tra cui il solito Benicio del Toro, ma che ti lascia un po' di disagio, perché poteva davvero essere un capolavoro, e invece è una bella idea, per carità, che deve essere però davvero molto raffinata. E allora, questo è Sicario, questo invece è il nostro game, il nostro film misterioso, due tracce da indovinare per provare a vincere l'edizione, la nuova edizione in un video di questo assoluto capolavoro. Quando il bambino era bambino, non sapeva di essere un bambino. Per lui tutto aveva un'anima e tutte le anime erano tutt'uno. Aveva un vortice tra i capelli e non faceva facce dal fotografo. Grazie a Gala, devi essere più corta nelle tracce, sennò qui mi indovinano tutti. Questo è un film fondamentale della storia del cinema, che esce con una nuova versione in video che sveleremo la prossima settimana. Se l'avete già indovinata, e penso di sì, La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo privato, provate a vincere. Fra poco vi faccio ascoltare un'altra traccia, stavolta più breve. Parliamo del nuovo film di Wim Wenders, un altro grande ritorno in questa settimana cinematografica, ve l'ho detto, molto molto intensa. Si intitola Ritorno alla vita, ascoltiamo la clip. Ho avuto un incidente con la macchina. Che è successo a quella persona? Non voglio parlarne. Possiamo solo cercare di credere che ci sia un senso in tutto questo. Grazie di essere venuto. Dovevo rivedere questo posto. Farei qualunque cosa perché non fosse successo. Quasi ogni avvenimento, prima o poi, può trasformarsi in una risorsa. Sto molto meglio adesso. Credo che riprenderò a scrivere. La stavamo cantando in italiano con la versione dei Nomadi qui in redazione, questa canzone straordinaria. Wim Wenders, ritorno alla vita e ritorno anche a un cinema di racconto, di narrazione, dopo tanto documentario da parte di Wim Wenders. Cast che mette insieme James Franco, Rachel McAdams e Charlotte Gainsbourg. Boris, con quali risultati? Purtroppo pessimi. Ci sono diversi collegamenti con i film di cui abbiamo parlato, perché c'è una grande colonna sonora come lo è quella della Prima Luce di Camilla Moreno, e c'è un grande inizio di film come nel caso di Sicario, dove c'è un colpo di scena dolorosissimo, lacerante, e in cui si vede i film Wenders dei tempi migliori. E poi, come spesso gli accade con i film di finzione, negli ultimi anni Wim Wenders si perde completamente, a volte anche a livello visivo. Lui che ha una profonda sensibilità, soprattutto sulla fotografia delle immagini e sul taglio delle immagini, qui si permette delle dissolvenze al telefono che non vediamo più nemmeno nelle fiction sudamericane. Si permette degli sguardi in camera, indulge in colori e in inquadrature decisamente banali, ma al di là della regia, che comunque ci stupisce, perché al contrario invece nei documentari straordinari, basti vedere Salgado, ma anche Buona Vista Social Club, al di là di quello poi il film è incomprensibile a livello di sceneggiatura. Ritorno alla vita perché parliamo di uno scrittore che si rende protagonista di un incidente di cui non ha colpe, ma che gli rimane attaccato per la tragedia di cui è stato appunto incolpevole l'autore, e scopre che il dolore porta anche talento, probabilmente, o porta comunque ispirazione. Non riesce a staccarsi da ciò che ha incontrato, ma non riesce neanche a non sfruttarlo. Tutto questo porta a un cambiamento decisivo e forse ingiusto, visto quello che gli è successo nella sua vita. Charlotte Gainsbourg è la donna colpita da questa tragedia, Rachel McAdams è la sua compagna, che lui probabilmente non ha amato mai, per dirla alla De Gregori, e il racconto si snoda su questa sensibilità, che in fondo potrebbe anche essere profondamente compresa dal Wenders, creatore, che si è trovato egli stesso su questo difficile crinale. Ma la sceneggiatura purtroppo è di una banalità sconcertante, le battute principali ti fanno cadere le braccia e soprattutto c'è un misunderstanding incredibile in tutto il cinema mondiale su James Franco. Pensavamo che fosse scarso quando ha iniziato a recitare e avevamo semplicemente ragione. Non è un bravo attore, rovina quasi tutto ciò che c'è di buono nel film, con smorfie deniriane, ma da De Niro addormentato, e alla fine Il ritorno alla vita è la lapide su una carriera straordinaria, è la dimostrazione che quando si perde l'ispirazione è difficilissimo ritrovarla. È davvero difficile capire come sia lo stesso regista dei capolavori degli anni 70. Guarda, devo dire che ti è piaciuto evidentemente il film, però a parte questo chiudo con una battuta, con la citazione dell'amico e collega Giancarlo Zappoli, che dice: se il Wim Wenders di allora incontrasse il Wenders di oggi probabilmente non lo riconoscerebbe. E questa mi sembra anche una chiosa che dice come, insomma, questo tentativo effettivamente non sembra davvero riuscito. Probabilmente non lo saluterebbe neanche. E allora Boris, grazie per averci raccontato anche questa settimana i film in sala nel weekend, e noi ci risentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. Assoluto, non ammetto repliche, la più bella canzone dell'album The Wall dei Pink Floyd, Comfortably Numb. Qui proprio non c'è democrazia su questa affermazione, di un capolavoro come The Wall, che torna al cinema, anzi arriva al cinema, perché al cinema non è che arriva il film degli anni 80 di Alan Parker, arriva invece un nuovo film che mette insieme il meglio delle immagini di questo concerto straordinario che fra il 2010 e il 2013 Roger Waters ha portato in giro per il mondo, 219 concerti, mette insieme questo con una storia che fa da fil rouge, il viaggio dello stesso Roger Waters dall'Inghilterra ad Anzio, a ritrovare le proprie radici, a ritrovare le tombe e i memoriali del nonno morto nella prima guerra mondiale, del padre morto nella seconda. Allora, Roger Waters The Wall in 4K, proiezione straordinaria a livello diciamo visivo, ma anche a livello sonoro, perché sentire questo concerto al cinema, insomma, è davvero tanta roba, come dicono i giovani. Allora, 29 e 30 settembre e 1 ottobre, in una settantina di sale, cercatelo, perché davvero è un'esperienza visiva e sonora da non perdere. E a questo punto noi, con le note di Pink Floyd, ci avviamo a dare la linea alla regia. Fra poco, terza parte, ci aspetta un altro regista reduce dall'ultimo Festival di Cannes, si chiama Cesar Acevedo e il suo film è Un mondo fragile. La rosa purpurea. Eccoci ancora insieme, La Rosa Purpurea, ancora cinema, grande cinema di cui parlare qui su Radio 24, perché è uscito nelle sale italiane in questo fine settimana un film che si intitola da noi Un mondo fragile, un film che ha avuto grandi riconoscimenti a Cannes, soprattutto ha vinto la Camera d'Or, che è il premio che viene assegnato a Cannes alla migliore opera prima in assoluto, tra concorso, fuori concorso, qualsiasi tipo di sezione di Cannes concorre se si tratta di un'opera prima. In questo caso a vincere la Camera d'Oro è stato César Acevedo, che fra poco sentiremo intervistato qui, ospite della Rosa Purpurea, con appunto questo film, titolo originale La Tierra y la Sombra, in Italia Un mondo fragile, un film che racconta la storia, una storia di campagna, potremmo dire, una storia dei campesinos nella Colombia di oggi, la storia di un anziano, Alfonso, che torna dalla sua famiglia dopo 17 anni, trova una situazione familiare ma anche esterna, ambientale, totalmente cambiata, dove la potenza e il potere dell'industria alimentare ha preso il sopravvento sulle vecchie regole e anche sulle vecchie conoscenze, sulle vecchie saggezze della cultura contadina. Sei mio nonno? Sì. Sono Manuel. Lo sai perché sei qui? Sì. Con il bambino non ci sono problemi, ma con Gerardo sì. E questa storia degli incendi non gli fa certo bene. Per il resto, sappi che non voglio avere niente a che fare con te. Va bene, ho capito. C'è dentro il mondo abbandonato, questo mondo fragile del titolo, c'è dentro anche però un discorso di relazioni all'interno di una famiglia, ci sono valori assolutamente universali, il film si svolge in Colombia ma potrebbe essere anche girato chissà in una terra del nostro mezzogiorno per esempio, dove quel rapporto fra l'uomo e la terra, fra l'uomo e l'ambiente uno a uno di una volta, di un tempo, è diventato un rapporto assolutamente impari e lo si vede dalla prima scena di questo vecchio uomo, questo vecchio contadino che arriva da lontano in una strada in mezzo a due ali di piantagioni di canna da zucchero, sono centinaia di migliaia di ettari di canna da zucchero che sono la fonte di sostentamento di questo popolo, ma sono anche in un certo senso la loro rovina, perché la canna da zucchero va bruciata prima di essere raccolta e queste ceneri, queste polveri coprono tutto, coprono soprattutto chi ha deciso di resistere e di rimanere lì nel suo posto natale. Di tutto questo parliamo, come dicevo, con César Acevedo. Pensate, 27 anni, opera prima, Camera d'Oro al Festival di Cannes per questo film, Un mondo fragile, che esce nei cinema italiani, nelle città più importanti, c'è, vi assicuro, andatelo a cercare perché ne vale davvero la pena. Qual è il valore simbolico, quanto conta l'allegoria in questo film? César Acevedo. Bueno, pues, è una película che si cuenta molto attraverso metafore e allegorie. Il film si racconta molto tramite metafore e allegorie perché credo molto nella forza delle immagini. A me interessa creare un cinema poetico in cui le immagini sono importanti. È come se il senso del film si potesse esprimere attraverso queste immagini, poiché i personaggi non riescono a esprimere i loro sentimenti con le parole. Con questa scena ho cercato di sottolineare sin dall'inizio il tono di tutto il film, che si capisse in modo semplice tutto quello che accadrà dopo. Il protagonista di questo film, la figura attorno alla quale ruota la storia, è questo nonno, questo anziano che arriva, torna dopo tanti anni a casa sua e trova una realtà completamente cambiata. Mi è piaciuto molto il fatto che è un uomo che apre le finestre, è un uomo che sfida la sua famiglia a guardare fuori e non rinchiudersi dentro, quasi a dire che il coraggio degli anziani è maggiore di quello dei giovani. Sì, il regresso di questo personaggio. Sì, è proprio questo ritorno che scatena le passioni che hanno consumato e che consumano questa famiglia. Per me questo è un film autobiografico, pensato quasi come un modo per riportare mio padre nella casa che aveva abbandonato. Un personaggio che è attanagliato dai sensi di colpa, dal passato. E la casa rappresenta la chiusura fisica, che è metafora della chiusura emotiva dei personaggi. vacío es una metáfora del encierro emocional. Ed è proprio lui, questo personaggio tormentato dai sensi di colpa, che offre delle soluzioni alla famiglia. Ecco perché l'immagine delle finestre e delle luci. È come se lui portasse aria fresca e luce in questa famiglia. Ecco, un'altra cosa molto bella, forse marginale, però a mio modo di vedere no, è il rapporto fra questo nonno e il nipotino. C'è un passaggio di conoscenze materiali, pratiche, manuali, che sembra essere saltato fra le generazioni. Cioè ci sono padri che non sono riusciti a trasmettere quello che i nonni sono in grado di trasmettere. Era voluta, diciamo, un po' questa funzione nel film? No, così come lo planteas. Non proprio così come l'ha impostata lei, ma forse la mia sottolineatura vuole evidenziare come si stanno completamente perdendo quei valori ancestrali e culturali della gente della campagna. Quest'uomo vede volare gli uccelli, sente il valore della terra, terra che lui aveva prima abbandonato, e avverte il bisogno di trasmettere questo bagaglio di conoscenze a un bambino che sta vivendo in mezzo alla devastazione. Per quello il valore del passato è molto importante per questo film. Un passato che sembra distrutto, ma che continua a ritornare. Anche se non lo vogliamo, il canto degli uccelli c'è e per lui sembra essenziale per poter recuperare questo passato. Dicevamo prima del tuo modo di fare cinema molto lineare, però con ogni immagine molto studiata, molto ben inquadrata, molto costruita anche proprio quasi pittoricamente in certi momenti. Allora è normale chiedere a un regista così giovane quali sono i modelli di ispirazione, qual è il cinema che hai visto, qual è il cinema che hai amato di più nella tua formazione? Sì, moltissimo, sono che... Sì. Tanti sono stati i modelli di ispirazione, anche se ho sempre preferito i film che mi fanno sentire più umano, che privilegiano i sentimenti ai fatti, quelli più poetici, quei film che ti lasciano più domande, piuttosto che dare risposte. Senza dubbio, uno dei miei maestri è Tarkovsky, per il suo modo di gestire il tempo. Bresson, per il suo ascetismo. Però comunque questo film non ha solo riferimenti cinematografici, ma anche pittorici. Ad esempio, per le rappresentazioni dei campi e dei lavoratori, ci siamo ispirati ai quadri di François Millet. Per gli interni, ad Andrew Wyatt con i suoi vuoti. Noi stessi abbiamo proprio costruito la casa dove abbiamo girato il film. Ci è voluto tantissimo per stabilire bene la distanza tra i corpi, i sentimenti e anche la macchina da presa. Il cinema è pur sempre osservazione ed è quello che abbiamo fatto, un'osservazione della realtà. Benissimo, io ho finito, ringrazio Cesar, con una battuta dico che prima ho preso un caffè e non ho messo zucchero di canna. Grazie. E allora, questo era Cesar Acevedo, il regista di Un mondo fragile, ospite della Rosa Purpurea, regista colombiano per questo film che è uscito in mezzo a tanti colossi in questo fine settimana, ma è un film che va assolutamente sostenuto. E noi sosteniamo voi, la vostra cinefilia, con il nostro DVD game e con la seconda traccia del film misterioso. A volte la mia eterna esistenza spirituale mi pesa. Vorrei sentire un peso dentro di me. Vorrei poter dire ora. Ora e non più da sempre, in eterno. Invece di sì, amen. Se siete davvero cinefili, se lo siete almeno come la nostra Grazia Gale in redazione, che si è saltata sulla sedia quando abbiamo deciso di fare questo game, dovete aver indovinato di che film si tratta e scrivercelo alla Rosa Purpurea @radio24.it, perché c'è una nuova bellissima edizione, un video da vincere. Chiaramente tutto questo lo scoprirete alla prossima puntata. Allora, linea della viabilità, ancora una volta, fra poco si parla di Totò, si parla del Festival Mangia Cinema, si risolve il game della prossima settimana, insomma si gioca ancora, c'è ancora tanto cinema da raccontare, restate con noi. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Rosa Purpurea. E siamo ancora qui alla Rosa Purpurea per il gran finale della nostra trasmissione. Tutto il cinema che c'è, dicevamo, sul grande schermo e anche oltre, e spesso anche in cucina, perché insomma il cinema e il cibo hanno e hanno avuto un rapporto molto molto stretto, continuano ad averlo e continua ad occuparsene per il secondo anno consecutivo un bel festival che ha inventato un amico, non solo di questa trasmissione ma anche personale, Gianluigi Negri, ma anche un grande, un bravo collega, che si intitola Mangia Cinema. Si svolge a Salso Maggiore Terme dal 30 settembre al 7 ottobre. Noi, come l'anno scorso, siamo radio partner di questo festival, che analizza appunto i contatti tra il cinema goloso e anche però i cibi d'autore, e quindi potremmo fare una sorta di mix tra queste anime che spesso stanno insieme e si accompagnano. È con noi Gianluigi Negri al telefono per raccontarci gli highlights, diciamo così, di questo festival che, state attenti, ve lo dico subito, coinvolgerà da subito anche voi, perché come lo scorso anno, fra poco io farò una domanda, voi tenete pronto lì il telefonino, dita belle allenate, il numero di telefono nostro degli SMS 349-238-6666, ve lo ripeto, 349-238-6666, pronti, perché io fra poco faccio una domanda. Il primo che indovina vince un weekend per due a Salso Maggiore durante Mangia Cinema, il secondo che indovina vince un invito alla cena di gala che, diciamo così, apre formalmente il festival la sera del 1 ottobre, di giovedì 1 ottobre, sempre lì a Salso Maggiore, ed è una cena, vi assicuro, alla quale conviene partecipare. E allora state pronti, fra poco la domanda, prima però l'ospite Gianluigi Negri in collegamento con noi. Ciao Gianluigi. Ciao Franco, buongiorno a tutti, e anche orgoglioso di avervi come partner anche quest'anno per la seconda edizione di Mangia Cinema, festa del cibo d'autore e del cinema goloso. Allora, noi diciamo che quando c'è il cinema e quando c'è il cibo non facciamo fatica, diciamo, ad accettare delle partnership. Allora, parliamo diciamo gli highlight di questa edizione. Tempo come sempre tiranno, però ti chiedo due cose, due nomi, certo, che si incrociano anche, fra poco capirete perché. Il primo ovviamente è quello di Totò, il principe della risata, ce lo ricordiamo con gli spaghetti in mano che mangia così a voracemente la pasta. Miseria e nobiltà. Miseria e nobiltà, però ecco, qual è e in cosa consiste l'omaggio a Totò? L'omaggio a Totò è doveroso proprio per questa immagine emblematica di miseria e nobiltà, perché in quel film si mangiava con le mani, da noi si mangia con gli occhi, ma quest'anno sarà nobile anche mangiare con le mani. Avremo tantissimi appuntamenti, mangiacinema.it li riporta tutti, e avremo un ospite d'onore che ricorderà Totò, ricorderà Alberto Sordi, ricorderà Steno, ma soprattutto parlerà di se stessa, che è Franca Valeri, l'icona del teatro italiano, l'icona della comicità al femminile, è veramente la signora del teatro italiano. Franca Valeri, che non fa mistero mai della propria età, 95 anni, portati ancora splendidamente, portati meravigliosamente. Noi quest'anno a Mangia Cinema, per lanciare l'edizione 2016, guardiamo sempre avanti, proietteremo nel 60° anniversario Piccola Posta, capolavoro di Steno, il papà di Carlo ed Enrico Vanzina, del 1955, 60° anniversario. Tra gli appuntamenti golosi da non perdere, soprattutto tra gli ospiti, il cast degli artisti dello spettacolo comprende Vito, protagonista di uno spettacolo che si chiamerà In Vito Veritas, Flavio Reglio, ridendo, sferzando e gustando con Flavio Reglio, Dente, favole per bambini molto stanchi, noi questi bambini li nutriremo, daremo loro da mangiare e cercheremo di renderli più pimpanti anziché stanchi, Edoardo Raspelli, volto televisivo, il volto noto per gli amanti della cucina e della gastronomia, lo chef stellato Massimo Spigaroli, lo chef di Alice TV Daniele Persegani, ma poi tantissimi altri appuntamenti. Se posso, Franco, ti citerei due o tre cibi assolutamente da non perdere. Poi assolutamente. Intanto la focaccia di Tabiano, che è il migliore dolce lievitato in Italia per Gambero Rosso, classifica di pochi mesi fa, e il gelato di Corrado Sanelli preparato in diretta con l'azoto liquido. Avremo tanti show cooking, avremo tante proiezioni, non solo Miseria e Nobiltà, non solo Piccola Posta, ma apriremo anche con un film recente, anche se non nuovissimo, come Amore, Cucina e Curry, perché mette di buon umore. Da noi il buon umore è imperante, è qualcosa di casa. A Mangia Cinema si sta bene. L'ultimo evento che vorrei sottolineare, ce ne sono davvero tanti, e ripeto, si trovano su mangiacinema.it, è la cena di gala dedicata a Totò, con ricette ispirate alla tradizione napoletana. Questa cena di gala si terrà giovedì sera alle 20:30 al Grand Hotel Porro, curata, lo posso dire, dall'Istituto Alberghiero Magnaghi, che è un istituto tra gli alberghieri italiani tra i più importanti, che ha una storia e una grande tradizione. E allora, direi che hai detto veramente molte cose, molte notizie, ma lo ricordo anch'io, mangiacinema.it è lì apposta per raccontare tutto quello che si può vedere, si si può fare anche a Mangia Cinema, fra cinema, gusto, cibo, incontri, musica, c'è davvero di tutto per una settimana, dal 30 settembre al 7 ottobre, e ricordo ancora l'incontro del 7 ottobre con Franca Valeri, che è davvero una vera e propria serata d'onore. E allora, eccoci a noi, il nostro numero di telefonino, il nostro numero di SMS è 349-238-6666, dovete dirci, dovete rispondere a questa domanda: qual è il primo film in cui Totò recita con Franca Valeri e quest'ultima interpreta il divertentissimo ruolo di Giulia Sofia? Rispondeteci, io ve la ripeto: qual è il primo film in cui Totò recita con Franca Valeri e quest'ultima interpreta il divertentissimo ruolo di Giulia Sofia? Titolo e vostro nome e cognome per SMS, solo per SMS. Da questo momento il primo che indovina un weekend per due a Salso Maggiore, però poi veniteci anche se siete lontani o dovete prendere l'aereo, e poi un invito per due alla cena del primo ottobre, la cena di gala, per chi arriva secondo. Insomma, noi premiamo sempre tutti, sempre molti. Gigi, ci vediamo a Salso Maggiore. Assolutamente sì, non mancare Franco, so che sarai dei nostri, e un augurio di poter vedere anche tutti gli ascoltatori di Radio 24 a Salso Maggiore per la festa del cibo d'autore e del cinema goloso Mangia Cinema. E allora, grazie a Gianluigi Negri di Mangia Cinema, noi andiamo avanti, è arrivato il momento di parlare del cinema da vedere in casa, cominciando dal game che faticosamente la scorsa settimana abbiamo risolto, era questo. La noce come piena, della sol del cielo. Che te la pongo, che te la pongo. Che cos'è? Il cinema? Eh sì, è proprio il cinema di Marco Ferreri, e il film è Nitrato d'Argento. Ci avete messo due settimane, ma ce l'avete fatta, anche grazie ai nostri aiutini della settimana scorsa. Francesco Lomascolo di Fasano, provincia di Brindisi, Simone Lofino di Trieste hanno vinto il DVD di Nitrato d'Argento, l'ultimo film in ordine del tempo del grande Marco Ferreri, che ci facciamo raccontare anche nella versione un video da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, un film girato del centenario appunto del cinema, il suo centesimo compleanno, è uscito nel 1996, appunto come dicevi l'ultimo film di un maestro come Marco Ferreri, che davvero è stato un regista unico nella storia del nostro cinema, un anarchico e polemista capace di raccontare il suo tempo con parabole sempre acide e grottesche. Nitrato d'Argento, che non può che essere visto come un film testamentario, è una sorta di controstoria del cinema dalla parte dello spettatore, con stralci di film tra i più disparati, da De Chissa, Maciste Alpino, passando appunto per La Grande Abbuffata, e con inserti di fiction. E in tutto questa sperimentazione tra materiale d'archivio e materiale inventato c'è un senso denso di nostalgia. È un film che però racconta anche non solo una storia, una controstoria del cinema, ma anche una storia di una società che è passata e rispecchiata attraverso i film. La versione in DVD presenta due extra veramente notevoli: Argento Vivo, che è un cortometraggio diretto da un grande sottostimato del cinema di oggi, Pappi Corsicato, e poi Il cinema è morto di Valentina Pattavia. E allora, questo è il menu del nostro game della scorsa settimana, Nitrato d'Argento. Andiamo alle segnalazioni, Giulio, velocemente, per quanto riguarda la prossima settimana al cinema, anzi più che al cinema in casa, perché ci sono come sempre tante proposte dai palinsesti televisivi in chiaro. Lunedì 28 settembre, ad esempio, su Rai Movie alle 14, Michael Cimino, fresco protagonista di uno strepitoso festival di Locarno, strepitoso per la sua presenza soprattutto questo mese di agosto, una calibro 20 per lo specialista. Lista. Sì, quando Clint Eastwood gli offrì la regia di questo film, Michael Cimino aveva 30 anni, lui accettò e girò un film che a vederlo oggi è veramente in stretto dialogo con quello di tanti maestri americani, Don Siegel, Sam Peckinpah, William Friedkin. È un eccentrico road movie che si inserisce nel discorso delle poetiche della violenza del cinema americano, quel cinema che riusciva a dare la forma alle tensioni sotterranee del paese. È un film pieno di temi letterari come l'individualismo, il viaggio, l'interpretazione nomade della libertà, e tutti sono declinati nel rapporto che è insieme intimo ed epico tra i personaggi e lo spazio, un rapporto che solo un'arte come il cinema è in grado di mettere in scena, è un rapporto che Cimino, che del cinema è davvero uno dei maestri, è stato in grado di far parlare. E allora ricordiamo l'appuntamento, 28 settembre, Rai Movie alle 14, una calibro 20 per lo specialista. Giulio, hai citato William Friedkin, ed eccoci mercoledì 20 settembre sempre su Rai Movie alle 23:40 con Vivere e morire a Los Angeles. Sì, un film che più un boh come un macigno sugli anni Ottanta, questo di William Friedkin, ed è veramente uno dei due capolavori neri di quel decennio insieme a Strade violente di Michael Mann. Un poliziesco diventato di culto dopo l'iniziale flop al botteghino, che fu davvero un sussulto nel cinema di quel genere che era veramente patinato in quegli anni. Questo film è stato una sorta di contrappunto cinico e feroce e anche pessimista al glamour paratelevisivo delle produzioni hollywoodiane di quel periodo. Friedkin racconta una Los Angeles dove la moralità non sembra appartenere più alle coscienze e alle convenzioni sociali, ma è una sorta di variabile matta che gira al ritmo forsennato della musica, degli inseguimenti, delle sparatorie. È un film dove tutto brucia velocissimo e sì, qui dentro si bruciano concetti come il bene, il male, la vita e la morte. È un grandissimo film. E allora ricordiamo l'appuntamento ancora per quanto riguarda Vivere e morire a Los Angeles, mercoledì 20 settembre, Rai Movie alle 23:40. Grazie Giulio, un saluto a tutti gli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Quanti contenuti, quanto cinema abbiamo raccontato questa settimana. Voi al cinema andateci perché c'è sempre tanto di bello da vedere. Noi ci sentiamo fra 7 giorni, saremo qui. Un saluto da Franco D'Assisi.